Hola. Ora. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prova radio 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E che avanti, buonasera. Buonasera, Bacchi. Non sta riuscendo bene, no, Bacchi. Ciao, Gio Maria, buonasera. Mi sembra che sei fuori, fuori, Bacchi. No, negativo, sono Gianfranco, Gio Maria. Hola, 1, 2, 3, 4, cura, cura, cura. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cura, prova, prova, 1, 2, 3. C'è nessuno? Nessuno? Mari, arrivo. Ehi, dimmi. Fai il passaggio. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Come mi senti? Adesso ti sento perfetto. Anche io ti sento perfetto. Ok. La terra è piazzata. L'antenna? No, sono col 7000 adesso. Ah, ma va bene, va benissimo, sento bene, dai, è perfetta la radio. Aspetta che adesso provo a piazzare il Galaxy un attimino, che voglio fare una prova. Mi dici come sto uscendo, così mi dici anche il segnale se cambia e anche la radio. Adesso sei 9.20, Ok, adesso come mi senti? Fa un passaggio più lungo. Come mi senti adesso che sto usando il Galaxy? Fai favore. Va bene, anche il Galaxy va bene, bella chiara, è chiarissima questa. Sto facendo le prove in radio perché la voglio sentire questo Galaxy. Mi hanno detto che volevano sentirla, io adesso gliela sto facendo sentire un pochino per fargli capire la differenza di questa radio. Allora, la radio è buonissima, è perfetta la radio, non c'è da dire niente. A me arriva il perfetto. Ok, dai, grazie, che adesso chiudo che sto andando a fare un po' di ginnastica con mia figlia, dai. Grazie Marie. Giulio, già ci sentiamo. D'accordo, ci sentiamo là, buon proseguimento serata, ciao. Grazie, ciao. Avanti, buonasera. Buonasera. Non ho sentito attore. Non ho sentito per niente, deve essere il turnettore. Sante, mi ha detto, sante, oia. Meglio così, là. E allora, come è andata oggi, Giovanni? E come è andata? Come al solito. Ah, tira, sono uscito a fare le analisi, sono rientrato. E stasera sono sceso in campagna un'oretta e così via, ma tutto bene, va. Quindi così, dai, qua sta rinnoviando. Ha fatto una barriera da leva al suo, una cosa pazzesca, no? Piano piano, va, già tempo suo. Bene, vediamo se faccio chiamata a Torre, se risponde. Torre, vorrei essere impegnato sicuramente. Ok, dai, avanti Giovanni. Un po' rauco, sì, un po' l'acqua, cerca di mettere a punto, perché non è chiara la radio, capito Mario? Adesso va bene Giovanni. Fa un passaggio lungo. 1-2 prova radio, 1-2 prova. Ma non è perfetta, non è chiara. Aspetta che attacco l'altro, va, un attimino. Vai. Adesso è chiara di luna, di luna, di luna. Uè, e allora Franco, buonasera. Buonasera Marino, non so che altro ci sia. Ciao Gio Maria, mi pare che ho sentito. Buonasera anche a lui. Come ascoltate a quelle perre? Mentre controllo il segnale e ci ho preso occhiali. Fammi vedere gli occhiali. Ehi, andate a vedere. Guarda un po'. Come siamo messi stasera? Il Santiago è sempre Sant'Agosto. Sant'Agosto va bene, la radio ti posso dare un po' cupa, ma già va bene, già si capisce. Ok, avanti Gio Maria per Franco. Non lo sento bene però Franco io, lo sento un po' fuori, capito? Franco, vai. Guarda adesso se mi senti meglio. Non si capisce niente, capito? Dani, come lo senti tu? Io lo sento male. No, qui arriva va benissimo, Qui già è un po' cupa, ma già si capisce, là. Adesso ha aumentato un po' il radio, va benissimo. Guarda un po', Mari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, per me va bene, Fra, per me va benissimo. Ok, un attimino, scusate il telefono. La prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un attimino il telefono. Torre!